Ci sono due modi con cui potremmo procedere e non è detto che li dobbiamo necessariamente disgiungere. Potrebbe essere il primo, che è quello che vi propongo, di ragionare un attimo su una regola generale astratta da applicare nella scuola quando si tratta di dialogare, quando si tratta di concertare. Ci potrebbe essere un sistema invece, esaminando una serie di casistiche, di casi, di situazioni che succedono, e arrivare poi alla regola concreta. La seconda potrebbe essere un po' più dispersiva, la potremmo utilizzare dopo che avremo ragionato su quello che vi propongo. La proposta è questa: noi abbiamo una scuola nella quale due parti si incontrano fondamentalmente per lavorare ad un progetto comune. Non lo dico io, lo dice innanzitutto il nostro contratto collettivo. All'articolo 4 la contrattazione integrativa ha questa finalità, quella di perseguire l'intento comune di migliorare, di produrre, ma che cosa? Conoscenza, competenze, di produrre formazione e di migliorare ed elevare anche le professionalità di quelli che contribuiscono a creare che contribuiscono a creare il paese. Perché poi stiamo formando delle persone che stanno all'interno di un valore che la nostra Costituzione, stamattina più che mai credo ne dobbiamo parlare, che la nostra Costituzione tutela al di sopra di tutto, la realizzazione della persona. Il lavoratore è una persona, sia esso dirigente, sia esso qualunque altro profilo all'interno della scuola, è un lavoratore e anche lui, come l'allievo, come l'alunno, aspetta di realizzare la sua personalità all'interno di questo percorso. Quindi alla fine, se partiamo, se ci diamo questo obiettivo, cerchiamo di capire cosa abbiamo in comune, perché cosa stiamo lavorando, capiamo che probabilmente non è esattamente la fabbrica nella quale ci sta il datore di lavoro che cerca di trarre un utile personale dal proprio lavoro e quindi cerca di ridurre i margini di guadagno del lavoratore subordinato al fine di conseguire un utile maggiore per sé. Non ci sta questo, perché stiamo lavorando tutti insieme per il paese. Detto questo, in che modo si dialoga nella scuola? Faremo questo tipo di percorso. Noi conosciamo gli strumenti attraverso i quali ci incontriamo ai tavoli negoziali, fondamentalmente, perché di base stiamo facendo questo, stiamo cercando un attimo di capire come dialogare tra dirigenti e rappresentanze dei lavoratori. Questo dialogo avviene solo al tavolo negoziale? È solo nella forma della contrattazione? Questa è la domanda alla quale risponderemo. A questa domanda risponderemo cercando poi di rispondere contemporaneamente, di fornire quegli strumenti che ci servono per rispondere ad altre domande, cioè il bonus famoso va portato al tavolo della contrattazione, la trasparenza va portata al tavolo della contrattazione, cioè tutto ciò che è comunicazione della scuola all'esterno. Ma se riguarda i lavoratori, salario accessorio o non salario accessorio, va portato al tavolo della contrattazione. Va coinvolta la rappresentanza dei lavoratori in un processo X. Quali sono i processi che si governano nella scuola? Che coinvolgimento hanno tutte le parti? Che coinvolgimento hanno i lavoratori nella gestione della scuola? Ci accorgeremo e ci arriveremo che non esiste soltanto il contratto, che non esiste soltanto l'informativa preventiva, che non esiste soltanto l'informativa successiva. Cercheremo di capire le altre forme di dialogo, in che modo sono previste dal nostro sistema normativo e quanto siano mistificanti certi discorsi che molto spesso vengono fatti da una parte o dall'altra, soprattutto da forme associazionistiche, diciamo minoritarie e autonome che cercano di tirare un pochino l'acqua al mulino della propria componente. Vedremo come siano false, come siano poco corrispondenti ad una realtà anche normativa. Quindi cercheremo di tenere insieme l'esperienza concreta con l'esperienza normativa. Allora, concertare e contrattare. Vedete, c'è il simbolo sul concertare, c'è il simbolo della Treccani. Questa non è una frase dal significato tecnico. Stabilire, preparare un'azione, un'impresa o altro di comune accordo fra più persone. Quindi questo è il significato di concertare. Ancora, contrattare, sempre nel significato comune del termine, sempre Treccani, dizionario online, discutere, prendere accordi, stabilire i particolari di un contratto che si intende fare o di un'intesa che si vuole raggiungere. Quindi non stiamo parlando di una dimensione giuridica, stiamo parlando di un modo di lavorare insieme, di fare delle cose, di porre, di realizzare delle azioni. Nel codice civile il contratto all'articolo 1321 è definito come l'accordo, stessa definizione che abbiamo dato nel significato comune del termine, concertare, dialogare, contrattare, è lo stesso significato di accordo, di contratto nel codice civile, solo che è finalizzato a fare qualcosa di particolare. Cioè a costituire, regolare o estinguere tra chi? Tra le parti che stanno contrattando, un rapporto giuridico che è di carattere patrimoniale. Le forme che quindi può assumere, che conosciamo benissimo, che può assumere che possono assumere le relazioni di scuola sono la contrattazione, chi lo dice? Lo dice l'articolo 2, l'articolo 9 del decreto legislativo 165 del 2001, istitutivo della dirigenza scolastica all'interno della dirigenza pubblica. Da cui sono espressamente escluse, cioè dalla contrattazione sono espressamente escluse, che cosa? L'organizzazione degli uffici, le materie oggetto di partecipazione sindacale, gli atti di gestione dei rapporti di lavoro, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali. Vi prego di porre attenzione in particolare a ciò che è escluso, perché ciò che è escluso dalla contrattazione non è detto che sia escluso dal confronto e non è detto che sia escluso dalla concertazione. E questa non è una velleità sindacale, non è un'aspirazione sindacale, è qualcosa che ritroveremo puntualmente nel sistema normativo. L'informativa, articolo 5, quindi è un altro pezzo delle relazioni sindacali, articolo 40 del decreto legislativo 165, informativa preventiva e informativa successiva. Non mi soffermo sulle materie, le conosciamo. La concertazione, l'esame congiunto. Vedete, c'è concertazione slash esame congiunto. Probabilmente scopriremo che sono la stessa cosa. Articolo 5, decreto legislativo 165 del 2001, però sostituito, modificato in questo nel 2012. Andiamo a vedere che cosa è successo nel 2012, dopo il 2009, quindi dopo la riforma Brunetta. Stiamo parlando di governo Monti, stiamo parlando di spending review, stiamo parlando di un momento nel quale era necessario intervenire per garantire il funzionamento del sistema Italia e quindi di migliorare, attenzione, di garantire il sistema Italia e quindi di migliorare certi aspetti dell'amministrazione pubblica. In questo senso vedremo, ritornerà il contratto di scuola. Contrattare a che cosa serve? Per la dirigenza scolastica la contrattazione è esattamente un momento della dimensione professionale del dirigente. Perché? Perché il dirigente, e adesso vi chiedo di porre un attimo mente a quello che sta succedendo in questi giorni. In questi giorni noi abbiamo visto dalle varie linee guida, le direttive del Ministero, la pubblicità che il Ministero ha fatto attraverso i suoi organi di stampa, stiamo assistendo ad un sistema di valutazione esterno delle scuole focalizzato a verificare, a valutare il dirigente scolastico, allo scopo anche di attribuirgli una parte variabile del suo stipendio che è legato al risultato. Anche a questo scopo. Il dirigente scolastico viene valutato sulla base, viene valutato perché quelle sono le sue dimensioni professionali, attenzione, non perché è un fatto punitivo, sulla base delle sue competenze gestionali ed organizzative, finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza. Quali sono questi risultati? Deve innanzitutto, quindi, correttezza. E sottolineo questo termine perché ci ritornerà molto spesso nella contrattazione. Trasparenza, efficienza, efficacia dell'azione dirigenziale in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale, cioè a un incarico in virtù del quale viene valutato o comunque gli viene chiesto di muoversi in questa dimensione professionale. Valorizzazione dell'impegno e del merito dei docenti, delle figure professionali che gli sono affidate all'interno della scuola. Apprezzamento dell'operato all'interno della comunità professionale e sociale. Probabilmente sbaglieremmo se pensassimo che l'unica dimensione professionale e sociale che ha il dirigente scolastico all'interno del quale deve realizzare l'apprezzamento sia quello dei suoi pari, cioè dei dirigenti dello Stato. Non è così, perché la dirigenza scolastica ha una provenienza molto particolare. Il dirigente scolastico è un docente ed è ancora un docente in alcune dimensioni collegiali. Parlo del preside, dove non è dirigente scolastico. Quindi probabilmente la comunità professionale che in qualche modo deve intercettare questa dimensione professionale del dirigente è proprio e anche quella dei docenti. Tant'è che l'apprezzamento all'interno della comunità viene valutato, viene pesato anche ai fini della valutazione del dirigente ed viene fatto proprio con riferimento alla docenza, ai docenti all'interno del suo istituto. direzione unitaria della scuola. Questo è un altro aspetto molto importante. Allora, competenze gestionali e organizzative. Quale competenza migliore, quale modo migliore di manifestare la competenza organizzativa e gestionale del dirigente se non quella di allocare le risorse? Il contratto è uno strumento di allocazione delle risorse economiche. Apprezzamento dell'operato: nel momento in cui si riesce a lavorare insieme, sicuramente non si può avere un apprezzamento negativo. Valorizzazione attraverso l'allocazione delle risorse, attraverso l'organizzazione, la gestione, il benessere organizzativo che si crea all'interno dell'istituzione scolastica e di cui il contratto è ancora una volta lo strumento, lo vedremo. Direzione unitaria della scuola, va da sé, il contratto inteso come concertazione, quindi il contratto è accordo, è concertazione anche ai fini del codice civile, ma la concertazione non è solo il contratto, quindi la capacità di concertare, di condurre unitariamente insieme a tutti, chiamiamola comunità, ma non a tutti piace questa espressione, la comunità scolastica, è sicuramente un modo di gestire la scuola. Contrattare per perseguire gli obiettivi sindacali della RSU, cioè da un lato il dirigente scolastico, abbiamo visto, realizza la sua dimensione professionale, il contratto, tant'è vero che il contratto è uno dei documenti che i nuclei di valutazione esterna prendono in considerazione. Però dall'altro lato c'è la RSU che rispetto al contratto non è esattamente neutra, perché la RSU realizza la sua vocazione, le sue finalità attraverso la concertazione, attraverso la conclusione dell'accordo migliore possibile. Tra le competenze necessarie per svolgere il ruolo della RSU, d'altra parte, non ci sta soltanto quella di rappresentare delle istanze a caso, ma quella di sviluppare delle competenze relazionali, la stessa cosa che veniva richiesta al dirigente scolastico. Quindi la capacità di creare consenso, la capacità di creare condivisione. In pratica tutti e due sono responsabili in relazione alla capacità e al modo con cui ciascuno delle due parti persegue questo obiettivo, creare consenso. La contrattazione integrativa, articolo 4, contrattazione collettiva integrativa, di cui la contrattazione integrativa di scuola è sicuramente un pezzo. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata a incrementare la qualità del servizio scolastico e non mi sembra che su questo ci siano differenze di vedute né da parte dei lavoratori né da parte dell'amministrazione. Ho incluso il dirigente scolastico volutamente tra i lavoratori, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. Quindi tutto quel discorso merito, valutazione, valorizzazione, professionalità, eccetera, eccetera, formazione, non è che erano estranei al nostro contratto, non sono estranei al nostro contratto, non sono nessuna invenzione nuova della 107. In sintesi, il contratto di scuola realizza che cosa? La dimensione professionale del dirigente, non come mero rappresentante dell'amministrazione, ma come persona che sta realizzando la sua dimensione professionale, la sua dimensione di persona all'interno di una collettività, ma realizza anche la dimensione della rappresentanza sindacale collettiva, dell'organizzazione sindacale dei lavoratori. Le regole da seguire per arrivare ad un contratto. Allora, sto cercando in questo momento di rispondere ad una domanda, vediamo se ci riusciamo insieme. La domanda è questa: ma chi è che deve fare la proposta contrattuale? Lo so che stiamo facendo contratti da una vita, però questa domanda ritorna ancora, ce la facciamo ancora. La proposta del contratto la deve fare il dirigente scolastico? Ma io RSU, a mia volta, che ruolo gioco in questa proposta? Allora, prendiamo adesso soltanto il meccanismo tecnico, quello giuridico. Chi è che fa una proposta? Una delle due parti, il nostro contratto collettivo assegna questo ruolo al dirigente scolastico. Che cos'è la proposta? La proposta non è altro che, innanzitutto, è un documento, è un atto, inteso come manifestazione di volontà, ricettizio. Che cosa vuol dire? Che io devo essere sicuro che è arrivato a destinazione. Quindi non basta, come qualche volta ancora succede, che arrivi nella casella di posta elettronica della RSU o dell'organizzazione sindacale la proposta del dirigente, il contratto, gli ho informato, gli ho fatto la proposta, adesso ditemi che cosa pensate, perché stiamo sviluppando da qualche parte, in qualche luogo, stiamo sviluppando anche l'idea di poter contrattare a distanza. Vediamo se questo funziona, se può funzionare. Quindi deve contenere tutti gli elementi il contratto. Teniamo presente, quando ci poniamo il problema, ma la parte economica come la devo suddividere? Che questa è una delle domande che anche stamattina mi avete proposto. Come va suddivisa? Quanta parte agli ATA, quanta parte ai docenti? la proposta del dirigente scolastico, mentre gestisce la scuola, è completa anche di questo elemento di proposta, che però non è fatta prioristicamente solo ed esclusivamente sulla base della consistenza numerica del personale docente o del personale ATA, ma tiene conto delle esigenze organizzative dell'istituto, alla luce di una visione che soltanto lui possiede. Ecco perché è il dirigente scolastico a fare la proposta. Quindi la proposta sarà argomentata, sarà logicamente funzionale a ciò che quella istituzione scolastica, non un'istituzione scolastica a caso. Ecco perché non esiste il 20, il 30, il 40, il 50% uguale per tutti. Quell'istituzione scolastica deve raggiungere, tenuto conto di tutte le risorse di cui dispone, tutte. Tenuto conto di tutti gli obiettivi concreti che vuole perseguire e di tutti i progetti che tiene in campo. Allo stesso tempo, nel momento in cui questa proposta arriva a conoscenza della controparte, che in questo caso, brutto controparte, dell'altra parte, qualcuno la prende addirittura come un'offesa, ma controparte è un termine tecnico, non c'è da offendersi, è un dato di fatto, viene chiamato così. Comunque, quando arriva a conoscenza dell'altra parte, la RSU può eventualmente rilevare, sulla base di un ragionamento esplicitato, di una conoscenza completa di tutti gli elementi, che se ne manca qualcuno, qualche fondo non noto o qualche attività della scuola che non si può, che non ne viene comunicata, una controproposta non è formulabile. Una controproposta invece è logicamente conseguente alla proposta del dirigente. Ogni modifica della proposta rappresenta a sua volta una proposta, quindi sarà a sua volta oggetto di discussione. La controproposta è una proposta. Un'altra cosa, la domanda che pure viene molto spesso, che ci facciamo e che ci poniamo molto spesso, ma la RSU non ha sollevato tutti i dubbi che doveva sollevare nel corso delle prime sedute? Siamo arrivati al decimo incontro per un motivo o per un altro e finalmente esce fuori che ci sta un'altra difficoltà. Oppure, siamo arrivati al decimo incontro di contrattazione e il dirigente scolastico solo oggi ci dice che ci sono dei residui. Magari perché non erano stati fatti tutti i calcoli, perché magari qualcosa era sfuggito. Insomma, arriviamo alla decima riunione di contrattazione e poi dice a un certo punto il dirigente: sentite, io ho il fiato sul collo del ministero, devo chiudere, se non ci decidiamo subito, mo faccio un atto unilaterale. Questo è un atteggiamento che abbiamo visto negli anni scorsi, vedremo legittimato da che cosa, legittimato da qualcosa. Purtroppo non è così, vuol dire che c'è stata la responsabilità di qualcuna delle parti, quella cioè che non ha tenuto un comportamento completamente chiaro durante tutta la contrattazione, per cui all'atto unilaterale non si arriva su questo presupposto, perché esiste una norma, 1337 del Codice Civile, che impone durante la fase delle trattative di tenere un comportamento corretto, un comportamento secondo buona fede, e in questo caso buona fede non è un termine a caso, ma è un istituto, è una precisa costruzione giuridica che richiama centinaia di anni di esperienza giuridica e di riflessione giurisprudenziale. Per cui la buona fede è quel comportamento corretto che non ha malizia, non ha reticenza, nella quale sono state fornite a tutte le parti, da un lato e dall'altro, tutti gli elementi per decidere. Ogni nuova scoperta che fosse nota e non fosse stata rappresentata nella fase delle trattative, rappresenterebbe un comportamento non corretto, valutabile anche da un giudice. I limiti alla contrattazione collettiva. Allora, la contrattazione collettiva, come noi la conosciamo, come l'abbiamo conosciuta nella scuola, è una contrattazione molto, diciamo così, partecipata. Nel senso che il nostro contratto collettivo prevedeva un largo consenso, prevedeva il raggiungimento di un largo consenso su tutti gli aspetti della direzione scolastica. Ad un certo punto arriva la famigerata riforma Brunetta, che incomincia a porre dei limiti. Pone dei limiti alla contrattazione collettiva, articolo 5, e impone, esclude, porta fuori dalla contrattazione, così come la conosceva il nostro contratto collettivo, alcuni pezzi. Sarà vero che questi pezzi stanno fuori? Non sarà vero. Ci sono sentenze che si sono prodotte in questi anni veramente in quantità industriale e alla fine potremmo uscire anche pari tra quelli che hanno, tra i giudici che hanno sostenuto che in realtà nulla era cambiato rispetto a quello che prevedeva il contratto collettivo della scuola e giudici che invece hanno ritenuto che la contrattazione, così come rivista dal decreto legislativo 150 del 2009, avesse effettivamente innovato e quindi avesse escluso delle materie e le avesse portate al di fuori della contrattazione. Sta di fatto che quella famosa situazione che abbiamo visto prima all'inizio, nel 2012, in qualche modo interviene un'altra volta il legislatore e introduce e parla di esame congiunto per tutte quelle materie che non sono oggetto di contrattazione. Allora che cosa abbiamo? Abbiamo un contratto collettivo sul quale si discute cosa sta dentro e cosa sta fuori dalla contrattazione. Attenzione, quando parliamo di contrattazione stiamo parlando di raggiungimento di un accordo tra pari. Teniamo bene a mente questo. Poi arriva questa legge del 2012 che precisa tutto ciò che non è oggetto di contrattazione può ben essere oggetto di esame congiunto. Però poi aggiunge, e qui quel famoso associazionismo di parte ha fatto i suoi danni, adesso vedremo come, aggiunge, sì però solo se i contratti collettivi hanno recepito l'esame congiunto. Siccome noi avevamo un contratto bloccato, non potevamo aver recepito niente, quindi qualcuno che ha temuto che l'esame congiunto potesse trasformarsi in una sorta di cogestione o in una sorta di potere di veto, insomma qualcuno che non capiva bene che cosa significasse esame congiunto, che non capiva bene, che non capisce bene che cos'è un esame, un potere di veto e che cos'è una cogestione, che è tutt'altra cosa rispetto all'esame congiunto, questo qualcuno ha incominciato a sollevare il problema al punto tale che addirittura l'informativa preventiva e l'informativa successiva sono state mandate non solo per posta elettronica, ma qualche volta fisse in bacheca, magari dietro a qualche altro documento, in modo tale che si vedesse il meno possibile. Perché? Perché se chiamavo al tavolo del negoziale la RSU per l'esame dell'informativa preventiva successiva, rischiavo di generare un potere di veto della RSU o addirittura di entrare in un esame congiunto su materie che erano soltanto oggetto di informativa. Questo è un equivoco che nasce dalla mancata conoscenza dei meccanismi. L'esame congiunto, quindi abbiamo detto previsto da questa norma. In realtà l'esame congiunto ha una sua tradizione anche nel comparto scuola, non soltanto nell'esperienza giuridica, adesso vedremo come. Innanzitutto tutti i rapporti di lavoro. Tutti quegli aspetti del rapporto di lavoro per i quali non è prevista la contrattazione possono essere oggetto di esame congiunto. Possiamo andare avanti? Scusami, grazie. Allora, nella scuola l'esame congiunto addirittura risale a prima ancora della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, quando cioè con i primi contratti degli anni 90 era previsto su alcune materie l'esame congiunto con l'amministrazione. Quindi stiamo parlando di un momento nel quale il rapporto di lavoro era regolato dall'alto e gerarchicamente, quindi non c'era un rapporto tra pari. Quindi l'esame congiunto, ne deduciamo, è proprio lo strumento per regolare dei rapporti tra soggetti che stanno su piani differenti, pubblico, privato. O soggetti istituzionali, poi lo vedremo, che agiscono sul medesimo piano, però soggetti che interpretano un ruolo istituzionale. D'altra parte, l'esame congiunto è uno strumento noto nella scuola italiana in questo momento, per esempio nell'area quinta, dove i dirigenti scolastici vengono chiamati, la rappresentanza sindacale dei dirigenti scolastici, ad un esame congiunto con l'amministrazione su determinati aspetti che non sono oggetto di contrattazione. Quindi l'esame congiunto noi lo conosciamo bene, lo sappiamo gestire. Spaventarsi all'idea che, siccome è uno strumento conosciuto dall'area quinta, quindi dalla gestione del rapporto di lavoro con i dirigenti scolastici, possa essere un vulnus, possa determinare una criticità perché viene aperto all'uso anche da parte di tutto il resto dei lavoratori, quella è una posizione, chi può pensare una cosa di questo genere, è una posizione evidentemente di paura, e la paura non costruisce, arrocca. L'esame congiunto, quindi, nella tradizione, ha visto nella tradizione della scuola regolato in questo modo. Puoi tornare un attimo indietro? Ve lo leggo proprio, come era previsto già negli anni 90. Allora, l'informazione, ai sensi dell'articolo 7, può chiedere in forma scritta un incontro al rispettivo livello di contrattazione, quindi poteva essere un livello di contrattazione nazionale o un livello di contrattazione integrativa, non di scuola, per l'esame particolare delle seguenti materie, c'era l'elenco delle materie che erano sottratte alla erano sottratte al confronto sindacale. Confronto sindacale mirante alla produzione del contratto. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Cominciamo a prendere nota perché vedremo che siccome lo possiamo fare, non è che non lo possiamo fare, ci possiamo anche rifare a questa norma precisa per capire come si fa l'esame congiunto. Nelle materie oggetto di esame resta ferma, lo sottolineo, l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie. Poi conclude, durante questo periodo, cioè durante il periodo dell'esame congiunto, l'amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali e le organizzazioni sindacali non aprono conflitti. E va bene. Però l'esame congiunto va regolamentato. Abbiamo visto, non lo possiamo recepire nel nostro contratto perché il contratto non è stato rinnovato. E come si regolamenta? Allora nella scuola non si può utilizzare. Questa è stata la posizione di alcune nicchie professionali. Non è vero. Il contratto, noi abbiamo uno strumento magnifico, possiamo andare avanti? Grazie. Se è vero che la scuola non conosce il contratto, è vero pure che non conosce l'esperienza in questo momento dell'esame congiunto, è vero pure che ha altri strumenti. Questi strumenti sono innanzitutto, vado un pochettino a memoria perché adesso il discorso lo vorrei portare su un altro campo. Allora, noi abbiamo uno strumento favoloso, che è quello di capirci, di dialogare. Quando si raggiunge l'intesa, evidentemente si è raggiunto l'accordo. Sto parlando della possibilità di disciplinare l'esame congiunto attraverso l'intesa. Ne ho parlato come se l'intesa fosse appunto un momento di incontro e di dialogo quasi a caso. In realtà l'intesa è uno strumento giuridico. L'intesa è stata chiamata concertazione, è stata chiamata partecipazione, in ogni caso è uno strumento di dialogo. La caratteristica dove sta? La caratteristica sta nel fatto che l'intesa normalmente si raggiunge per iscritto. Quindi si mettono fermi dei punti tra le parti che vogliono concertare, cioè che vogliono regolare tra di loro qualche cosa per raggiungere un obiettivo, un risultato, la definizione di concertazione che abbiamo dato all'inizio. Quindi l'intesa è un accordo. Ed è un accordo finalizzato alla governance di scuola, quindi in questo senso intercetta pienamente la dimensione professionale del dirigente scolastico, per convergere su che cosa? Su un progetto che può essere il progetto di direzione della scuola, il progetto che viene fuori normalmente dal piano di miglioramento della scuola, no? Una volta che abbiamo esaminato quali sono i punti dolenti della scuola attraverso il documento di autovalutazione della scuola, il RAV, e abbiamo poi elaborato all'interno della scuola con la partecipazione di tutte le componenti il piano di miglioramento, siamo giunti alla conclusione che c'è un progetto di scuola da portare avanti secondo certe linee. Quel progetto viene sviluppato attraverso l'accordo, attraverso degli accordi che intercettano la metodologia con la quale il dirigente e i lavoratori insieme vogliono procedere alla realizzazione del piano di miglioramento. Questo l'abbiamo già detto. Per esempio, quanto può essere utile un'intesa nella scuola? Innanzitutto, tutte le volte nelle quali c'è un provvedimento autoritativo che deve essere assunto dall'amministrazione, cioè un provvedimento che non è una contrattazione, non è una cogestione, non è una condivisione di responsabilità. Perché? Allora, teniamo conto di questo. Il provvedimento da adottare concretamente è quello che sta in capo al soggetto che ne risponde. In alcuni casi il dirigente scolastico è chiamato da solo a rispondere di certi risultati, per cui l'amministrazione si serve del dirigente scolastico, perché il dirigente scolastico non è l'imprenditore di cui sopra che agisce per se stesso, ma agisce nell'ottica di un'azione amministrativa per realizzare determinate finalità e quindi gli dice: quest'atto lo assumi tu. Immagino, sto pensando al bonus famoso. Il bonus lo attribuisce il dirigente scolastico con quei procedimenti e attraverso quei criteri che passano per il comitato di valutazione. Va contrattato il bonus. Il bonus non può essere contrattato nei suoi criteri, che sono sicuramente del comitato di valutazione, il quale però, siccome è espressione di un organismo professionale, non è che viene da chissà dove il comitato di valutazione, ben potrebbe prendere e assumere i suggerimenti che si sono formati all'interno della comunità, all'interno del collegio dei docenti, all'interno del consiglio di istituto, tenerne conto nell'ambito del procedimento di formazione dei criteri. Però sicuramente il bonus come tale sfugge alla contrattazione, ma non necessariamente sfugge ad un'intesa. Quando vi manderemo poi i materiali, cioè vale a dire tutto quello che state vedendo adesso proiettato, vi manderemo anche un esempio di intesa che peraltro è stato collaudato ampiamente dalla FLC, anche se è prodotto non da noi qui in Campania, ma prodotto in Lombardia. Lo abbiamo fatto anche noi, ne abbiamo fatto intese simili. Quello che avrete è quello lì che è stato fatto in Lombardia. Ci accorgeremo che l'intesa in quel caso lì è stata utilizzata per sostituire un provvedimento unilaterale del dirigente. C'è qualcosa di scandaloso in questo? No, perché l'intesa nasce nell'esperienza italiana. Puoi tornare un attimo una slide indietro per piacere? Nasce nell'esperienza italiana, guardate, è interessante. Nasce proprio quando nel 2000, col testo unico sugli enti locali, si pone il problema di stabilire in accordo tra i vari enti territoriali, di regolamentare dei pezzi in accordo tra i vari enti territoriali. In questo caso la legge attribuisce agli enti territoriali, agli enti locali, la possibilità di stipulare intese, di raggiungere intese. Ancora, la legge 241 che tutti quanti conosciamo, agli articoli 11 e 15, prevede ancora una volta l'intesa con il privato. In questo caso non si tratta di enti che stanno come negli enti locali, cioè di organismi istituzionali che stanno sullo stesso livello, ma parliamo di soggetti che stanno su piani diversi, l'amministrazione da un lato, quale essa sia, e il privato chiamato a intervenire nel procedimento amministrativo. Anche qui si forma un'intesa. Quindi l'intesa ha un precedente autorevole nel nostro ordinamento giuridico, è preciso. L'intesa viene utilizzata proprio quando bisogna adottare un provvedimento unilaterale, proprio quando bisogna adottare un provvedimento unilaterale, che non è possibile condurre in una relazione tra pari, ma si vuole ottenere su quel provvedimento il più ampio consenso possibile. Quando viene chiamato ad intervenire nel procedimento di accesso agli atti, il privato viene invitato a partecipare a quel procedimento, a dire la sua. E quel dire la sua viene presa in considerazione dall'amministrazione che sta esercitando, che sta gestendo il procedimento di accesso, e se se ne vuole discostare, cioè non vuole ascoltare le controdeduzioni del privato, deve darne ampia e motivata ragione. Altrimenti quel provvedimento rischia di essere censurabile sul piano non solo della correttezza e della buona fede, ma correttezza e buona fede, che in quel caso, trattandosi di un procedimento amministrativo, viene preso sotto la luce, in considerazione da un giudice amministrativo, sotto l'aspetto dell'eccesso di potere, dell'illogicità manifesta, della mancanza o perlomeno dell'illogicità della motivazione. Quindi stiamo parlando di un procedimento che è tutt'altro che formale, ma che è coercibile sul piano giurisdizionale, è esigibile. Quindi, evidentemente l'intesa è uno strumento di governance per il dirigente scolastico. Non è qualcosa che gli è estraneo a quella dimensione professionale. Perché? Perché ottenere consenso su qualcosa che è un atto unilaterale assicura al dirigente scolastico la possibilità di giungere sicuramente a buon fine con quel progetto. Tanto è vero che è stato detto, a proposito della nuova governance che scaturirebbe dalla 107, quella figura del preside sceriffo che dovrebbe fare non si sa cosa, è un delicato, sto citando Cristianini, esercizio di equilibrio. Le istituzioni scolastiche autonome sono delle organizzazioni alle quali è riconosciuta un'ampia autonomia relativamente all'assetto interno e non solo alle strategie didattiche. Ampia autonomia. Chi è che decide qual è nell'esercizio dell'autonomia gestionale, qual è lo strumento migliore che assicura il risultato migliore? Il dirigente scolastico, perché la responsabilità è la sua. E è lui che verrà valutato sul fatto che ha scelto gli strumenti migliori per gestire. Se un progetto di miglioramento fallisce, è al dirigente scolastico che si chiede quali sono gli strumenti che hai posto in essere per governare questo processo. Se tra questi strumenti, uno dei possibili, più di uno dei possibili strumenti non è stato attuato, a chi verrà detto non hai fatto tutto quanto avresti potuto fare? Al dirigente scolastico. Quindi la valutazione dello strumento migliore per raggiungere il risultato in maniera più semplice e migliore possibile, efficiente ed efficace, è rimessa solo al dirigente scolastico. Quindi non è una rinuncia all'esercizio di un potere, semmai di potere si trattasse, perché è una funzione, che è qualcosa di diverso dall'esercizio di un potere, ma è proprio uno strumento rimesso alla valutazione di un soggetto apicale. Solo lui la può fare questa valutazione. L'intesa non è una diminuzio, al contrario, è una valorizzazione della funzione, della dimensione professionale della dirigenza scolastica. Possiamo andare avanti? Grazie. Allora, nella scuola l'intesa rappresenta una concertazione. Siamo ritornati alla prima frase, quella lì tratta dal dizionario Treccani online. L'intesa non è altro che uno strumento di concertazione. È uno strumento, la concertazione diventa uno strumento di governance. La concertazione nella produzione della conoscenza, è stato detto che mentre la valutazione interna, qua sto parlando della valutazione esterna dei NEV, non soltanto valutazione sul dirigente scolastico e sulla gestione dei processi da parte del dirigente scolastico, ma anche sugli esiti, cioè sulle competenze acquisite dagli alunni, sto parlando della valutazione di sistema, la valutazione di scuola, quella che viene fatta attraverso i nuclei di valutazione invalsi, per intenderci. È stato detto quindi che mentre la valutazione, sto leggendo, interna, ha come oggetto l'efficacia rispetto agli obiettivi che l'organizzazione si è posta e all'efficienza nell'organizzazione delle risorse, la valutazione esterna, cioè come verrà valutata la scuola e la sua gestione, è finalizzata a valutare in che modo l'unità scolastica ha contribuito a raggiungere gli obiettivi generali definiti a livello di sistema. Cioè in che modo la mia scuola, la scuola di un altro docente, ha contribuito a migliorare il sistema Italia, il sistema scuola dell'Italia. Come arrivare ad un'intesa? Allora, adesso abbiamo compreso, uno, che l'intesa è un modo per concertare ed è un modo per governare la scuola, due, che non è una rinuncia da parte del dirigente scolastico, ma al contrario, è un modo con cui il dirigente scolastico fa opera delle scelte che ricadono direttamente sotto la sua responsabilità ed è l'unico che può valutare l'utilità dell'intesa, e che la rinuncia ad utilizzare lo strumento dell'intesa significa che ha rinunciato ad uno strumento diretto, semplice, per coinvolgere i destinatari del provvedimento. E abbiamo visto che questo la legge non l'ha fatto, questo errore, che persino nell'accesso agli atti la legge si è preoccupata di coinvolgere il soggetto destinatario del procedimento. Allora, partire innanzitutto, quando si vuole formulare un'intesa, si parte innanzitutto dagli intenti, interessi comuni, dopodiché si determina il contenuto dell'intesa. Possiamo andare avanti? Attenzione. Chi è che garantisce l'enforcement? Chi è che garantisce il rispetto dell'intesa? Allora, se l'intesa non è un contratto, verrebbe da dire non nascono diritti soggettivi rispetto all'intesa, perché ovviamente siamo al di fuori del diritto privato. È vero, però qua abbiamo un soggetto che perde di credibilità, dirigente scolastico o RSU, se non attua quello che ha stabilito con l'altra parte. A parte il fatto che poi, una volta che veramente, autenticamente, abbiamo concordato sugli interessi da perseguire e abbiamo deciso che quegli interessi sono comuni, non realizzarli da una parte o dall'altra sarebbe una contraddizione in termini. Quindi va da sé che l'intesa, più ancora del contratto, che tutto sommato rappresenta una conciliazione di interessi, l'intesa invece è proprio la condivisione dell'interesse, l'essere d'accordo sul fatto che quella azione è necessaria. Quindi l'intesa da sola dovrebbe garantire il rispetto di se stessa. In ogni caso rientra attraverso quelle regole della buona fede nei comportamenti contrattuali o comunque nei comportamenti tra le parti, per cui è anch'essa coercibile, non direttamente, non come esattamente come un contratto, però anch'essa viene presa in considerazione dal giudice, dal giudicante, casomai dovesse sorgere un problema di rispetto degli accordi sottoscritti nell'intesa. Sto terminando. Il dirigente scolastico è debole se concerta, è una figura debole. L'abbiamo visto, le pratiche gestionali e le pratiche organizzative impongono al dirigente scolastico di scegliere il mezzo più efficace e più efficiente per raggiungere il risultato. La RSU è una RSU forte se non concerta, se si sottrae alle intese e pretende magari di arroccarsi su posizioni critiche. Non di certo, perché sta tradendo quelli che sono gli obiettivi delle organizzazioni sindacali, che sono quelli di raggiungere l'accordo migliore possibile a tutela, naturalmente. È chiaro, stiamo dando per scontato che stiamo discutendo di accordi che tutelino gli interessi in gioco, e che quindi una RSU che si rifiuti di, che non abbia un comportamento lineare, corretto, in buona fede, che si rifiuti di giungere ad un contratto leale, sicuramente non sarebbe una RSU che sta realizzando le finalità sindacali. In sintesi, rinunciare a cercare soluzioni condivise significa rinunciare a cercare la soluzione migliore, perché la soluzione migliore è sempre, sempre quella più semplice. Grazie. Bravo.